La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Questo brano che sto per leggere viene dal romanzo Gelosa di Majakovskij, scritto da me e pubblicato dalla Marsilio nel 2002. Che tempi, m'ero chiusa in campagna e mi lasciavo crescere i baffi liberamente. Ed è la storia di Vladimir Majakovskij, il grande capo della banda futurista russa, il violento, il timidissimo, per metà indomabile e per metà compromesso, questo sbruffone sublime che nacque in Georgia da famiglia russa nel 1894 e a Mosca nel 1930 si sparò al cuore. Il motivo occasionale fu il rifiuto d'amore, l'ultimo rifiuto d'amore, per una donna per lui poco importante, infine. Ma il vero dramma era l'ostracismo politico che si trovò intorno. Load up, and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello. All'epoca in Russia andavano molti terzetti amorosi prima della rivoluzione, ovvero coppie che vivevano con l'amante di lui o di lei, e continuarono ad andare avanti per un po' anche dopo la rivoluzione, finché non si consolidò il rigido bigottismo sovietico. E fu un eterno terzetto la storia tra Majakovskij e Lili Brick e il marito di lei, Osip, che durò dal primo incontro fino al suicidio del poeta, suicidio al quale i due loschi Brick diedero una bella mano. Il lino narrante di questo libro è il gobbo di Majakovskij, una spia che lavora prima per l'Okhrana, la polizia segreta dello zar, e poi lavorerà per la polizia segreta sovietica, sempre seguendo Majakovskij. E qui dà conto di una grande tournée che nella primavera del 1914 i futuristi fecero nel sud della Russia. Hello, hello. Che gran teatro! Dovunque portavano la frenesia di mettersi in maschera e molti giovani del pubblico venivano travestiti. I futuristi li pagavano, ma venivano accolti come l'esercito nemico. Un funzionario, prima della conferenza, disse a Majakovskij: «Tenetelo a mente, non vi permetterò di parlare male delle autorità e, in generale, di Pushkin». Facendogli spaventosi, poi, i futuristi volevano quello che vogliono i giovanotti, far colpo sulle donne. «Chiudete in casa le ragazze, arrivano i futuristi!» gridavano nelle città durante il loro giro. Ma si trattava di una fama usurpata. Erano timidi. E Valodia, ovvero il diminutivo di Vladimir Majakovskij, e Valodia più di tutti. Quelle ragazze moderne, tante chiacchiere, ma alla fine non la davano. Almeno a loro, che si sfogavano con le lotte fra artisti o in poesie vogliose che Majakovskij gettava alla folla sperando in una risposta, e scriveva: «Noi, pezzi d'uomini, padri di robusti volumi, per la città, come Onan isterilita, con la sua ressa di fanali giallastri come castrati, le voglie delle femmine affamate sazieremo noi, tutti pelosi pezzi d'uomini maschi. Aperta pubblicità. Siamo qui, che aspettate?» Ma quelle non se ne davano per inteso. Burliuk, uno di questi grandi futuristi, pensoso, disse: «Sarà perché siamo troppo colorati che andiamo sempre in bianco?» Finalmente Odessa, una ragazza, diede retta a Majakovskij, il quale si innamorò, riamato, di Maria, una brunetta. Ma anche con lei, per fortuna della poesia, andò male. E Majakovskij scrisse La nuvola in calzoni. Voi pensate che sia il delirio della malaria? Ciò accadde. Accadde a Odessa. Verrò alle 4, aveva detto Maria. Le 8, le 9, le 10. La 12ª ora è caduta come la testa di un giustiziato. Sei entrata tu. Tagliente come un «eccomi». Hai detto: «Sapete, io prendo marito». «Maria, Maria, Maria, lasciami entrare, Maria. Maria, più vicino, con denudata impudenza o con pavido tremore, concedimi la florida vaghezza delle tue labbra. Maria, il poeta canta sonetti, mentre io, tutto di carne, uomo tutto, chiedo semplicemente il tuo corpo, come i cristiani chiedono, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Maria, non vuoi? No, Maria non volle. In compenso la tournée andava benissimo, però dopo il no di Maria, Valodia tornò da sconfitto, pallido che sembrava un simbolista. With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm alive. Tornarono alla vita perché si era profilato un nemico da abbattere a tutti i costi. Era successo che quello scranzato di Kulbin, il pittore, aveva invitato in Russia Filippo Tommaso Marinetti, di testa sua, senza avvertire Majakovskij e compagni, come se fosse stato lui il padrone del futurismo. E gli aveva pure promesso grandi accoglienze, ah, ci avrebbero pensato loro. Egli giunse, forte dei successi europei, indisponente, come un colonnello in visita alle grate colonie, convinto che i futuristi russi lo avrebbero salutato come geniale precursore e capo indiscusso. Figuriamoci, quegli egotici, con tutta la fame di donne e la furia inespressa, gli si gettarono addosso come cinghiali, rinnegandolo e sfottendolo, e dichiarandosi gli unici veri futuristi dell'orbe terracqueo. Marinetti ebbe lo scorno di essere applaudito dalle signore addobbate, dai nobili ai borghesi nei grandi teatri, e sputacchiato dall'avanguardia. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello. La guardiana del faro. La cosa che più interessava a Majakovskij era l'amore. Intanto Vladimir esce con una signorina per bene, Elsa Kagan. Neanche lei la dà, anzi la fa molto lunga al riguardo, pur non essendone stata, a dire il vero, mai pregata. La prima volta che l'ha visto da amici non aveva nessuna speranza di essere notata fra le altre ragazze più belle di lei, grassoccia dagli occhi a palla. Rimediò, come sempre i deboli, facendo un guaio. Ruppe la collana di perle per raccoglierle con lui sotto il tavolo. Vladimir, a scanso equivoci, si fa chiamare zio Valodia, fa il paterno. Quando lo va a trovare, lei suona il piano, lui compone versi. Meglio di niente. Non gli piace la ragazza, gli piace la casa, coi tappeti, le palme, i due pianoforti, elegante famiglia ebrea, padre studioso, madre bella e musicista, una signora. E dice, ma quello chi è? Ma che vuole? Non c'era ancora stata la rivoluzione e un barabba così per casa faceva impressione. Quando arrivava in quella dimora rispettabile, cilindro e bastone, camicia gialla come il sole, un cucchiaio di legno nel taschino, la sigaretta fra i denti, Majakovskij spesso aveva il corazzo e non tutti ammiratori. C'era sempre qualcuno che voleva dargliele. La prima volta la cuoca, non avvertita, chiamò i gendarmi. Elsa non sapeva di niente, ma lui continuava a frequentarla per scandalizzare la madre. Anche se ogni tanto sbotta. Troppo banale quella ragazza. Eppure complicata. Ha letto qualche libro e ha imparato la malizia di chiamare col nome di malattia il suo vuoto per renderlo interessante. E più bara, più lo irrita. Ma c'è la sorella più grande, Lilia. Sempre sdegnata, coi suoi occhioni neri. Non osa pensarla. È sposata. È un ragazzo retto, quel Majakovskij. Sfrenato, ma non ruberebbe mai una moglie. Casa Kagan, una piazzaforte che va conquistata. Il fischio lo sveglia, l'applauso lo addormenta, beh, non per niente futurista. E lì non è preso sul serio, anzi sfottuto da una madre abbastanza snob da tenerlo a bada. Valodia fa la sua sparata favorita per annichilire i benpensanti. Lascia l'enorme biglietto da visita giallo e nero. E la signora Kagan, Vladimir Vladimirovich, avete dimenticato la vostra insegna? Lì, su quella porta borghese, si infrange la sua commedia. Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, hello, hello. E qui eccolo, alle prese con le infernali sorelle Brick, con Lily Brick che si appiccicherà a lui per tutto il resto dei suoi giorni facendogli vedere i sorci verdi verdissimi, e l'altra, la mediocre Elsa. Ma continuiamo a leggere il racconto del Gobbo su questo introdursi in casa Kagan con le due sorelle Elsa e Lily. Mentre sfidava la madre, cioè la madre delle ragazze, la signora Kagan, Majakovskij non sapeva di essere una pedina fra le due sorelle, la posta più cospicua di una guerra iniziata con la nascita di Elsa, quando Lilia non fu più l'unica. Mai, nemmeno per un istante, Lilia divise il suo impero con la sorella. Quella vita fatata, di cavallini di legno, di bambole parigine, di trine su trine, solo in apparenza toccava entrambe. Riti di sottomissione da bambine, qualcosa di satanico nel silenzio di una casa per bene. Elsa non mette mai una cosa nuova. Prima simbolicamente la indossa Lily, poi la passa alla sorella, sempre per sua concessione e di seconda mano. I giocattoli invece le erano proibiti del tutto. Lily se ne impadroniva dicendo: ci gioco io, tu li sciupi. Da piccola doveva salutare Lily con la riverenza e allacciarle le scarpe. I genitori non sospettavano. Non c'era protezione per Elsa e non c'è nemmeno adesso. Nessuno verrà a salvarla dalla sua vergogna. La paura che prova per la sorella malvagia, il piacere di quella paura. Nel mondo tecnicamente si chiamerebbe rapporto sadomaso, povera definizione, per un brivido senza fine. Lily le tesse un destino da perfetta vittima, da furba schiava, da gatta morta mondiale che non è peggiore di altri destini, e poi le sta bene, come il cappellino che porta per andare a passeggio la domenica. Un'ipocrita nata, una gregaria però con ambizioni, con un sottodestino da portare fino in fondo. Erano state bambine molto belle e ancor più ben vestite. Una volta, mentre passeggiavano, le notò Shaliapin, il famosissimo cantante, e si fermò ad ammirarle, e le invitò al suo spettacolo. Fu allora che si precisò la vocazione delle sorelle: sedere in prima fila, gratis, appoggiandosi al talento altrui. A questo ideale si mantennero fedeli sempre. Seccava parecchio a Lily che Elsa tenesse tutto per sé quel ragazzo enorme. Molte più piccole sono le porzioni che essa le concede. Come osa indossare un uomo che non ho prima scartato io? Che si è messo in testa di fare senza il mio permesso? Lily aveva un fiuto da mercante per le cose belle. Per questo il naso le si ingrossò e vibrava da vecchia, come quello dei cocainomani alla ricerca del nuovo da ciuffare per prima. Quel futurista è un oggetto interessante e in mano a Elsa è sprecato. Lily si sfogava a sfottere Elsa. Te lo sei trovato bello il moroso, lucido come un rublo falso, con quel cilindro da poco comprato nei mercatini, salvo che non perda anche quello al gioco. Era successo. E Vladimir si era presentato a testa nuda, un po' più piccolo, un po' meno teatrale del solito, come sempre dopo una batosta a carte. Tanto le seccava la conquista di Elsa che Lily arrivò a fingere di non sapere chi fosse Majakovskij. Insostenibile. Intanto non si parlava d'altro. E poi lo avevano visto coi suoi occhi, lei e Osip, al Circolo delle Arti di Mosca, quando in mezzo alle lodi generali aveva fatto un intervento esplosivo contro il festeggiato, che era il poeta Balmont. Erano stati a commentare per mesi, dicendo in punta di forchetta: «A noi gli attaccabrighe ci disgustano». E adesso sbatteva gli occhi. «Che mestiere fa il tuo Majakovskij? Il baro? Il borsaiuolo?» Ma erano chiacchiere. Valodia era una celebrità e il suo esordio a teatro con la tragedia Vladimir Majakovskij aveva fatto un chiasso tremendo. Dalla provincia correvano a vederlo, fosse pure per tirargli le uova. Dava un lustro intollerabile alla sorella. Sarà suo, perché comanda lei e basta. Ma Lily aveva sottovalutato Elsa. dopo che l'ebbe preso Valodia e si compiaceva di averla messa a posto per sempre, invece Elsa, cheta cheta, sull'orlo di quell'indigeribile furto, acchiappò uno straniero di passaggio, il signor Triolet, ufficiale francese che sognava l'amore esotico, e lo sposò. Afferrò al volo la coda della cometa per uscire dalla Russia, dominio di Lili, e sfuggì alla sua tirannide. Anche per questo, in seguito, assieme al suo secondo marito, Louis Aragon, divenne fan di Stalin. Aveva qualcosa di Lili, così prepotente da convincere tutti da essere bella, quando fu presto un mostro. Ma questo dopo. Qui ancora Vladimir passeggia con Elsa. Lei ha 16 anni, lui 20. Ed è la posta in gioco fra le due sorelle. Questa però solo l'apparenza. Il fatto è che allora i poeti bucavano i muri, no come ora che i muri bucano loro. E lui, fin dal primo giorno, a raggi X, aveva visto nell'ultima stanza, la più nascosta, Lili. Quella donna egoista, annoiata, sposata, regina senza regno, che vuol mettergli le mani addosso. E lui voleva farsele mettere, con voluttà da gatto, col suo sesso soriano, sentiva il profumo francese di giglio infranto che pulsava nei corridoi per arrivare fino a lui e posarglisi sulla spalla. Lui, lo sciamano che parlava alle cose, potevano ingannarlo gli uomini. Come un dio in visita, era cortese e faceva finta di non vedere le manovre delle due iene. Ma sapeva. Sa che Elsa fa la guardia giorno e notte perché lui e Lili non si incontrino. Sa che Lili si è sposata con Ossip Brick per capriccio, perché lui non la guardava. Ripetendogli che lo amava alla follia, lo ha convinto a sposarla. Ma Ossip continua a non guardarla lo stesso. E si consuma nella colpa di non amarla. E cerca di riparare stando ai suoi ordini. Questo Lili vuole. Perché nemmeno lei lo ama. Non è capace. Dell'amore fa solo i gesti. Una grande mima dell'amore. Pareva vero. Se l'era preso per ricattarlo con una passione fittizia. Sa anche i pettegolezzi più turpi, Vladimir. Gli si dice, il fango, che Lili, dopo un aborto che l'aveva resa sterile, aveva ripiegato su quel figlio di ricchi commercianti. E pare avesse già avuto molte relazioni scandalose, la prima a 13 anni, col professore che le faceva i compiti. Non sapeva altro, perché a questo punto aveva rotto il naso al tipo che glielo stava raccontando. And I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find a well, whatever, never mind. Intanto, quando Vladimir era in visita, Lili lasciava cadere come per caso gli episodi leggendari della propria bellezza. Magari parlando con la madre dall'altra stanza, una fama costruita punto per punto. Il pezzo forte era l'incontro con Rasputin in treno, quando lui la mangiava con gli occhi e le aveva chiesto di andare a trovarlo. Vladimir ascolta, come se non gli importasse. Quell'uomo sincero è un grande attore. Solo una volta si tradì, quando morì il padre delle ragazze, il mite e valente professor Kagan, che si era sempre battuto per i diritti degli ebrei. Condolendosi con le ali strette di mano, Vladimir aveva una luce negli occhi. Pensava a Don Giovanni, alla morte del commendatore. Uno di meno nella vita di Lili. Il più temibile. Colui che l'ha viziata, tenuta sulle ginocchia. Il primo che l'ha trovata bella. Resta sempre quell'inestirpabile Ossip. Lilia non perse la pazienza. Era più intelligente di Elsa, ci voleva poco. E aveva letto La Fontaine. La vinse con la vanità, come la volpe il corvo, che ha nel becco un gran pezzo di formaggio e la volpe gli fa: «Ma è vero che hai una voce meravigliosa?» Allora il corvo, lusingato, apre il becco per cantare, così lascia cadere il formaggio e la volpe se lo piglia. Più fina della volpe, Lilia continuava a stuzzicare Elsa, irritandola. «Se viene dietro a te, vuol dire che uno che non sarà mai nessuno». E finalmente Elsa disse: «Ah sì? Allora te lo faccio vedere io, chi è Majakovskij». Organizzò una lettura poetica di Vladimir per Lilia e Ossip a casa loro, in vicolo Zhukovskij. Lo vendette al Trionfo Domestico e addio formaggio. La guardiana del faro. Continuo a leggere brani da un mio romanzo del 2002 uscito con Marsilio, che si chiama Gelosa di Majakovskij. che racconta la storia di questo fortunatissimo e sfortunatissimo gigante russo. Majakovskij ha conosciuto una ragazzina poco interessante che si chiama Elsa Kagan e ha cominciato a frequentare la sua casa perché in verità è innamorato della sorella Lily Brick, sposata, e sarà legato a questa donna fino alla fine. Qui racconta l'incontro, appunto Elsa stuzzicata dalla sorella, perché Elsa non vuole presentare Majakovskij alla sorella perché sa bene che è più affascinante di lei, però la sorella la provoca al punto dicendo: ma quel cialtrone, ma il tuo poetastro, ma quell'avanzo di galera. Alla fine pensa: ma allora te lo faccio vedere io chi è Majakovskij, e organizza una lettura a casa dei due Brick, di Lily e Osip, marito e moglie, e Majakovskij legge. Questo è dal diario di Majakovskij. 27 luglio 1915. Una data felicissima. Conosco Lilia Yuryevna e Osip Brick. E in quell'occasione Vladimir legge La nuvola in calzoni. Quel canto d'amore esasperato che grida: eccomi, sono qui, chi mi vuole? Ho tanta fame d'amore che posso sfamare il mondo. E cerco una lipede, uno che abbia le ali, no? Ai piedi, come me. Lily veramente strisciava. Ma l'amore è l'amore. Per un momento chiunque può volare, e poi via, a parte l'antipatia mia per lei, sacrosanta, devo pure ammettere che lui l'amò d'amore, allora, e poi di volontà, come il comunismo, pur vedendoli in ogni piega, fuori e dentro, li amò contro se stesso, e anzi, pare poco che se la sia cavata sparandosi. Due caparbietà così grandi si potevano pagare molto peggio. Invece si assunse in cielo, da solo, come Edipo, per avere troppo sofferto di quello sforzo d'amore che gli gonfiava le vene anche mentre dormiva, povero bimbo. Dopo la lettura si sentiva il rumore delle lacrime. A Lilia l'insensibile apparve una lacrima che cadde sul polsino di Osip. Né il giorno delle nozze aveva pianto, né il giorno che morì suo padre. Piansi anch'io, questo è il gobbo, la spia, il lio narrante che parla. Piansi anch'io, con la discrezione del mio mestiere, mentre ascoltavo dal tubo della stufa, uscì in strada tutto nero di fuliggine, mi presero per un futurista. Ma Lilia lo ha raccontato in una delle 116.920 interviste che rilasciò dopo il suicidio di Vladimir. Majakovskij estrasse dalla tasca un quaderno sottile e recitò il prologo. Sollevammo gli occhi e fino alla fine non fummo in grado di staccarli da quel prodigio. Elsa era entusiasta, lo sapeva lei, lo stupido orgoglio di Elsa. Beh, certo, naturalmente Lily, 50 anni dopo, ancora si burla dello stupido orgoglio di Elsa, quando tutto è successo già e tutti fanno finta di niente. Lei tace e lui le dedica il poema. Osip glielo farà stampare, il suo primo editore. E questo sempre Lily in una delle 100.000 interviste. Il primo a riaversi fu Osip. E chi se lo aspettava? Chi lo avrebbe detto? Andava oltre qualsiasi cosa lui conoscesse in poesia. E Majakovskij sarebbe stato un grande poeta anche se non avesse mai scritto altro. Ecco, qui osservo che già spunta l'invidioso, già lo vuole limitare, già gli dice basta così. E quella sera Majakovskij non tornò a casa sua, piantò l'innamorata che aveva allora e si trasferì al Palais Royal, non lontano da casa dei Brick. Qui il gobbo che parla, sempre la spia, innamorato pazzo del suo seguito. Cominciò la parte bella del mio lavoro, assistere a un amore dall'inizio, assistere alla evoluzione di Vladimir da affamato in amante. Tocca a me davvero questa fortuna. Fino alla Maria della nuvola in calzoni, il problema era la danno, non la danno. Con Lily sopravvenne il come, la pelle, gli aromi, il tormento, il sì, il no che diventa sì, e più spesso il sì che è un no duro come una mattonata. Lei era la quintessenza della signorina, una signorina sposata. Bella rivoluzionaria s'era trovata, di uno snobismo ributtante. Prima di Vladimir frequentava solo contesse, sempre a caccia di inviti importanti, e poi un'oziosa, incapace di combinare alcunché. Le aveva cominciate tutte senza finirne nessuna, musica, scultura e via dicendo. Non c'era arte che non avesse tentato e poi svogliatamente lasciato. A scuola si faceva fare i temi del professore e mica se ne vergognava. No, anzi, se ne vantava per dritto e per traverso e trionfava, asina com'era, a farsi credere un fenomeno. Su quei temi alati e splendidamente maturi riposava in gran parte l'amore di suo padre, uno degli uomini da lei ingannati. Ebbe Vladimir. Ebbene, Majakovskij mise tutta la sua rivolta ai piedi di quella donna, perché era una signora. Lui lo sfacciato, il timidissimo, sotto la sua finestra. La tenne stretta al cuore, stretta che non poteva andarsene, stretta due mani coi suoi muscoli da atlante. Sì, sì, lo ripeto, anche se mi offende, all'inizio fu amore. Lili poteva essere civetta, calcolatrice, seduttrice di professione, quanto le pareva, ma Vladimir era Vladimir. Una donna come intendeva lui non l'aveva mai avuta, e nemmeno lei aveva mai visto un uomo anche in quel senso lì che fa comodo. Era una montagna innamorata, era una mandria, e quella sua parentela con gli animali. Però Vladimir non aveva mica solo l'amore cui pensare. Ha perso il gioco, i biscazzieri lo cercano, minacciato col coltello, odio fra artisti, agguati, altre che i duelli sbandieratissimi dei moschettieri. «E tu?» chiese Vladimir a Osip, che era il marito di Lilia. «Sarò il vostro impresario», disse lui, aggiustandosi la farfalla, alla perfezione della quale affidava la bellezza che gli mancava. E lo fu, finché gli convenne. Quando non gli convenne più, vendette Majakovskij alla polizia. Arriva un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Sono un architetto sessantenne con una semplice e in apparenza classica situazione sentimentale. Innamorato corrisposto della socia di studio e sposato. Da 4 anni casini, valigie tiratemi addosso da entrambe. Mi butta fuori mia moglie, P, anni 53, e vado a stare da G, anni 40. Dopo qualche giorno G mi butta fuori perché pensa che ho voglia di tornare a casa. Mia moglie mi riprende immediatamente e con gioia, ma dopo qualche giorno, appena mi vede pensieroso, ritiene che ho nostalgia di G e quindi vivo ormai l'incubo delle valigie e con i sensi di colpa che mi uccidono, perché col mio comportamento faccio stare male tutti. P, G, io, mio figlio. Aiutami con qualcosa di incredibilmente intelligente e non con le tipiche «Ma tu con chi vuoi stare? Chi ami? Che vuoi dalla vita?» In ultimo, in questa storia di amore ce n'è in quantità industriale. Francesco. Ma no che non te lo chiedo, Francesco, perché tu dalla vita vuoi esattamente quello che hai. Tu vuoi questa ballata delle corna, del doppio amore, che racconti con un ritmo ballabile, da vaudeville. E tu vuoi questo casino dell'eterno ritorno con eterna fuga, le due donne che ti mandano a colpi di padella l'una dall'altra e che avrà il suo lato divertente, credo, soprattutto per te. E loro certamente si divertono meno, però hanno accettato la parte in commedia e la svolgono con coscienza. Finché una delle due non apporterà qualche modifica al copione, per esempio, hai visto mai, incontra qualcuno che ama proprio lei invece del condominio, continuerete così. E allora forse è vero quello che dici, che di amore ce n'è in quantità. Spero però non industriale, che introduce un che di fastidiosamente meccanico. Diciamo un amore artigianale, fatto a mano, e quindi con imperfezioni preziose. Cara Barbara, i miei genitori sono persone in gamba e non mi hanno mai fatto pesare la mia omosessualità. Di conseguenza nemmeno gli amici, perché la mia serenità e sicurezza mi hanno protetto. Il mio problema è sempre stato essere corrisposto da chi amavo. Bene, dopo 4 anni di una felicità quasi incredibile, lui è sparito e non mi ha fatto sapere nemmeno perché. L'idea immediata è stata farla finita. Ora però voglio vivere, per costringerlo a dirmi la ragione della sua immensa cattiveria. Lamb. Io credo, Lamb, che in certi casi la cattiveria sia una ragione in sé, sia un movente in sé. Una mia amica ha chiesto al padre, cattivissimo, ma perché sei così perfido? E lui ha risposto, Dio ha fatto i buoni e i cattivi, e a me mi ha messo fra i cattivi. Chi ha questa vocazione la persegue e non credo che riuscirai a costringerlo a spiegarsi, perché altrimenti perde tutto il suo potere. Il colpo che ti ha inferto è la sua soddisfazione, la sua gloria. È come chiedere a un rapinatore, gli è appena riuscito un colpo in banca e tu vuoi che ti dia il bottino. Beh, che c'è andato a fare in banca? Che ti ha colpito a fare? Se poi deve lenire il colpo a un altro, oppure se è solo stufato, è vile o è crudele, oppure ha voluto rendersi indimenticabile. Senti, c'è una sola fantastica vendetta che tu potresti permetterti: dimenticarlo. Sai, non è facile, lo so che non è un colpo di bacchetta magica, non basta una martellata in testa. No, fare come se. E poi, sai, a poco, magari conoscendo qualcun altro, a forza di esercizio. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Sharmanka Sharlatanka. Questa è una lettera molto vecchia. È una lettera che mi arrivò per il settimanale Amica all'inizio degli anni 90. E questa è la storia. Ho 20 anni, 7 più del mio passato, che è cominciato quando al mio posto c'era una ragazzina di 13, capace di amare, ridere, divertirsi. Abitavo in un quartiere di Milano, San Felice, dove i ragazzi si conoscono da sempre perché vanno fin dall'asilo alla stessa scuola. Io ero fin da bambino il capo della più grossa banda e mi facevo chiamare Lillo il Po. Solo un gruppo di ragazzini non faceva parte di noi. Erano i figli delle famiglie più importanti e andavano a scuola privata, a Milano. Erano snob e distaccati, biondi e bellissimi. Io e le mie amiche ci fissammo su di loro. Cominciammo a passare le giornate nella loro strada, a guardarli passare, nella speranza che ci rivolgessero la parola, mentre tutti i nostri amici dicevano: state diventando tutte pazze. Ma chi li ascoltava? Io guardavo quel ragazzino biondo, dagli occhi azzurri freddi, che dicevano si chiamasse Ricky e fosse il capo, fragile, dalla voce sottile. Guardavo il suo sorriso ironico sparire dietro la porta della sua villa e mi dicevo: è lui che voglio. Lui, il ragazzino biondo, stava sempre zitto, ma quando parlava, anche se a bassa voce, tutti ammutolivano e obbedivano le sue parole. Un giorno pioveva, erano passati 4 mesi, noi 5 tutte bagnate. Aspettavamo, come al solito, che uscissero da un'ora sotto la loro casa. Finalmente, eccoli, splendidi, severi, uscirono e ci rivolsero la parola per la prima volta. Volete venire nella nostra taverna a sentire i dischi? Le amiche mi guardarono. Io feci cenno di sì. L'avevano chiesto a noi, con tutte le ragazze che avevano i piedi. Gli occhi ci brillavano, le mani ci tremavano. E mentre camminavamo, senza parlare, dietro di loro, fino a quella taverna, quel buco, quella stanza adorata, quell'oscuro destino. In quei 20 passi, tutti i sogni, tutte le speranze. Mi sorriderà, mi parlerà, potrò guardarlo, dirgli che lo amo, che dei dischi nemmeno l'ombra. Chiusero la porta a chiave, spensero la luce e ci strapparono tutta la roba che avevamo addosso. La mente confusa, bloccata, i bottoni di una camicia bianca che saltavano, segni ancora acerbi, lacrime, vergogna, risate, dolore, umiliazione, paura, luci accese, commentini, nuove risa, luci spente, mani dappertutto, spinte, insulti. Avevano 13 anni come noi, ma com'era possibile? Capivo d'essere entrata nel mondo dell'amore e del sesso dalla porta sbagliata. E nonostante tutto, dopo tutte le cose oscene che ci dissero, dopo che ci fecero uscire con un ciao e grazie, era ancora lui che volevo, ancora loro a cui credevo, e dissi alle mie amiche: è colpa nostra. Così cominciò la nostra piccola, terribile compagnia. La chiamavamo Cianfru ed era, nella nostra fantasia, una dea bambina, bionda come loro, e io ne scrivevo la favola in un grande libro, Gli Atti degli Apostoli, che poi leggevo nei momenti più tristi alle mie amiche. Sotto il segno di questa dea, Ricky era Dio. Ben presto loro impararono a sfruttare la nostra abnegazione. Andavano e venivano a intervalli di ore e di mesi. Sfasciavano a calci le nostre porte di casa, se non li aprivamo. Spalmavano torte sui divani dei nostri genitori. Ci impedivano di vedere altra gente. Noi capivamo che era sbagliato. Scuola, famiglia, amicizia, non esisteva più niente. Sapevo di aver chiuso gli occhi. Sapevo che quel sentimento così forte e segreto era la faccia più oscura dell'amore, la più pericolosa. Era l'adorazione, quella vera, che distrugge. Ma loro erano la nostra vita e noi volevamo loro, nonostante ci facessero tanto soffrire. Quando se ne andavano era terribile. Ci riunivamo a cantare, a ricordare, 4 anni così, finché un giorno Ricky ci disse: «Noi con Cianfru abbiamo chiuso», e questa volta era finita sul serio. Ma quando per 4 anni ti sei creato un ideale assoluto, quando ti senti lontana dalle altre ragazze, diversa, più profonda, più triste, non ci puoi proprio più vivere con la gente. Io e le mie amiche restammo per più di un anno in isolamento assoluto, e mentre loro, i nostri vecchi idoli, si integravano con i nostri ex amici di un tempo, noi ci scavavamo il vuoto intorno. «Quelle sono delle streghe», mormoravano di noi, perché camminavamo di notte a piedi nudi per le strade, perché rompevamo vetrine, bucavamo le gomme delle macchine e ci spogliavamo e facevamo pipì sulle porte delle case, perché guardavamo la gente e ridevamo. Ma era per sentirci vive, porco cane, che senza di loro non c'era più niente. Ci sembrava ci avessero strappato via tutto. Alla fine passò anche quell'anno atroce. Io ricominciai a scrivere e stavolta in maniera diversa. Scoprii che potevo inventarmi un personaggio e rivivere attraverso di lui. Creai la Carla, demone, donna, bambina, incarnazione del male, a metà tra Lilith e la piccola Lolita. Lei sì che gli uomini li sapeva distruggere. Era bella, li aveva tutti ai piedi, ma lei non amava nessuno e si vendicava, mi vendicava, sulla carta. Sì, ma intanto, magia, cominciavo a diventare carina anch'io. Cominciavano a venirmi dietro ragazzi e uomini, a grappoli, quasi all'improvviso. E oltre al mio viso, al mio corpo, era cambiato anche il mio atteggiamento. Ero diventata dura e disincantata. E allora perché non provare a concretizzare questa Carla cui dovevo tanto successo? Feci collezione di amori infranti, lacrime e preghiere, finché un giorno cadde anche lui, Ricky. Solo che ormai il giro della giostra era cambiato ed ero io che guidavo. Siamo stati insieme 4 anni ed è finita pochi giorni fa. 4 anni in cui gliene ho fatte passare di tutti i colori, giocando un tiramolla crudele e degradante per tutti e due. Eppure lo amo. Nel frattempo ho imparato a far impazzire gli uomini a letto, anche quelli di 40 anni. In compenso non impazzisco io, nemmeno se mi torturano. Non sono mai stata con nessuno se prima non lo avevo fatto innamorare. Poi li piantavo e tornavo da lui, ma alla fine non ce la facevamo più, né lui né io. E quando non ne potevo più della lotta tra una come me che ancora gridava vendetta e si leccava le ferite e l'altra che sussurrava «per favore, prova ancora a dare amore», beh, quando non ne potevo più di tutto questo schifo, prendevo un coltello e mi tagliavo sulle braccia, sulle gambe, sui seni, affascinata da tutto quel sangue e dai punti che mi davano il pronto soccorso. La mia famiglia, lui, gli amici, piangevano, non capivano, ma io capisco, e i personaggi dei miei libri capiscono. Ho tanta paura d'amare e solo così so mascherarla. Ibsen ha detto che non si possiede mai eternamente ciò che si è perduto, ma allora perché in me il passato ancora ritorna e ancora mi fa soffrire e fare tante cose brutte? Oggi ho 20 anni, studio psicologia, sono amata, stimata, ma ho ancora tutta intera questa vecchia paura. Ranocchia. Questa è una storia vera, è una lettera che mi è stata scritta circa 20 anni fa da una ragazza che poi ho voluto conoscere. E ho trovato una ragazza bella, gentile, con tutte queste ferite nelle braccia. Sono passati altri 20 anni. Ranocchia, se sei da qualche parte, mi scrivi, mi dici come sei adesso. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.